Ma io posso dire una cosa velocissima, come Manfredi, non come chi. È stato veramente interessante, no, perché non ce l'hai parlato, quindi non mi sento prendere le vostre voci. È interessante notare come tutti coloro che sono intervenuti oggi sono partiti da dei punti che sono sempre quelli stati ripetuti da ognuno, che è la necessità, o comunque il vedere l'università un po' come delle torri d'avorio, quindi delle accademie come un qualcosa chiusa in se stessa, il vedere l'utilizzo dei linguaggi all'interno di pubblicazioni scientifiche, che siano su riviste, su libri, come un linguaggio non fruibile realmente, quindi riferito solo a chi le torri d'avorio le vive e le abita. L'altra questione che viene continuamente fuori è l'interdisciplinarità, che sembra una banalità, ma è una facoltà che all'interno dell'Accademia Umanistica non è così scontato pensare a un'interazione reale e concreta tra docenti di materie differenti. Non, uno può pensare che siamo tutti illuminati e che discutiamo per il sapere. No, ognuno discute per la propria disciplina. Ed è difficile vedere realmente una congiunzione delle varie discipline. E tutti ne sentono però la necessità. E l'altra, a chiudere per tutti, è che cosa sono oggi le nuove tecnologie per... Ora noi stiamo parlando di storia, ma parliamo in generale di ricerca in ambito umanistico. In che modo si utilizzano le nuove tecnologie? Sono loro che servono a noi, siamo noi che serviamo a loro. Qual è il metodo col quale ci dobbiamo approcciare verso di loro? Come dobbiamo pensare di far sì che gli altri possano fruirle? Cioè, questi sono i punti che sono venuti fuori da tutti, probabilmente molto banale, però noi abbiamo iniziato 4-5 anni fa a discutere partendo tra altre domande, soprattutto su queste domande. E io sentire che ognuno le ripete, insomma, è abbastanza anche violenta come sensazione, perché si fa capire che c'è un desiderio condiviso, non parlo solo di un malessere, parlo proprio di un desiderio condiviso, di un cambiamento. Basta pensare che in 2 anni neanche ci siamo trovati qua, ci siamo trovati a Bologna, ci siamo trovati a Roma, improvvisamente sembra che si possa discutere realmente, perché ha un senso discutere di queste cose, cioè una contemporaneità che ci interessa realmente. E io penso che questo è un punto molto importante da tenere a mente, cioè che i punti in comune esistono già, e non è perché è banale, è così perché oggettivamente sentiamo o la necessità o delle mancanze, che ognuno a modo suo, chi in maniera più sul pratico creando laboratori e chi strutturando un servizio o comunque una realtà online, a mio parere meravigliosa, chi è ancora magari legato alle tavole, appunto. E quindi, però appunto, molti modi differenti di poter analizzare la cosa, di volerla portare avanti, ma i punti di partenza sono più o meno per tutti sempre i soliti. Era una cretinata, ma teniamolo a mente, perché penso che sia una volontà condivisa questa, è molto forte e presente. E soprattutto su questi punti di partenza condivisi apriamo il dibattito a tutti i gesti. Ah beh, sì, ovviamente. Quindi... Okay. Intanto voglio dire che tutto questo dibattito mi sembra eccezionale, cioè mi sembra molto, molto utile, primo perché i disagi da cui siete partiti io li sento anche come miei, insomma, in qualche modo questo forse si ricollega anche a quello che si diceva ieri, no, su quella che è la condizione della ricerca a livello accademico, non accademico, precario, eccetera. Penso che quella sia, come dice, c'è un fatto materiale che porta anche a certe riflessioni e risalti. Quindi li sento. Ci sono due punti specifici sui quali voglio entrare nella questione. Penso nell'intervento di Alfredo, del caso S, all'inizio c'era la questione del fatto che naturalmente il mezzo digitale consente un'interazione, no, tra quello che l'ha scritto, quella fonte, mettiamo così, quel testo e chi lo legge, molto più ampia e anche molto più personalizzata, se vogliamo, no, per gli ipertesti, eccetera. Quindi la mia domanda qui è semplice, cioè vi siete anche rapportati in questa riflessione con tutto quel mondo che è il mondo della didattica, della storia, dove per esempio nell'ambito dei libri di testo nelle scuole in Italia ma anche all'estero c'è un, diciamo, c'è stata una vera rivoluzione. I libri di testo degli ultimi 10 anni, al di là dei contenuti, che purtroppo poi sono tornati indietro in molti casi, per esempio verso una storia molto nazionale, eccetera, però per esempio non c'è più libro di testo che non abbia schede, che non abbia una rottura della linearità cronologica e che non abbia anche dei DVD e compagnia, insomma, che in qualche modo mi sembra ripercorrano queste. Mi sembra indicativo che venga da questo campo, perché è il campo dove la public history, diciamo, è per forza lì, cioè è la storia che deve essere tramandata o comunque costruita per la nuova generazione, quindi si lega anche a tutto il discorso di quello che è la pedagogia, la didattica di queste materie. L'altra questione è quella del lavoro collettivo, che mi sembra una questione decisiva, penso, un po' per tutti noi, perché da un lato io ho questa cosa: l'università, il mondo accademico è una torre d'avorio, 99.9% sono d'accordo, però esistono delle realtà, dei centri di ricerca soprattutto, dove invece si fa discussione, diciamo, orizzontale delle questioni, e in realtà quelle pratiche che voi proponete esistono, si fanno riunioni continue, i testi vengono sostanzialmente scritti assieme anche all'interno delle strutture accademiche. Non solo, alcune nuove indicazioni storiografiche, per esempio tutto quello che è il campo della global history, per fatti anche molto materiali, che uno non può sapere tutto della storia su un argomento, dalla Corea del Sud al Brasile, no, la Corea del Sud credo sia un soggetto forte di questo simposio, quindi bisogna citarlo, e poi il problema linguistico, naturalmente, questo ti spinge, no, a creare delle costruzioni. Giulia, ora non so dov'è, no? Cioè, ci sono questi progetti di ricerca collettiva che, con tutte delle modalità, l'uso di Skype, ma poi la conferenza, cioè anche per ridurre i costi, insomma, che pure è una questione grossa. Quindi da un lato questo, in più c'è un'altra questione, sempre dentro il mondo accademico parliamo, cioè i grossi progetti anche europei, le RC per esempio, spingono verso la cooperazione. Di tipo puramente accademico, o invece possono essere, cioè l'RC è un progetto dove tu fai il progetto, ma in realtà sotto ci sono 4-5 sottoprogetti, e viene chiesto anche nei bandi, no, di dire quali sono le forme di interazioni, quante volte vi vedrete ogni mese, e sono valutati positivamente questi aspetti. Quindi voglio dire che questo discorso che fate voi non è di per sé fuori dal mondo accademico, anche se è chiaro che messo a confronto con delle realtà dove il mondo accademico è puramente gerarchico può essere rivoluzionario, perché se, come dire, al barone gli chiedi di sedersi al tavolo con il dottorando e di discutere alla pari su queste questioni, lì stai scalfendo una cosa. Però c'è un salto in più che secondo me si può fare, cioè chi c'è dentro questi collettivi? E chi ha questo potere, cioè questo potere sapere dentro i collettivi? E quindi io vi chiedo se voi vi siete rapportati a esperienze storiche a questo punto, però fondamentali, cioè che sono state evocate anche nelle discussioni precedenti, la Conricerca, l'inchiesta e le 150 ore, per fare un esempio italiano, diciamo, che sembra ormai, no, lontano anni luce, cioè dove non è che non è una questione di interdisciplinarità tra chi ha, diciamo, ufficialmente, istituzionalmente il sapere, cioè il sociologo, l'economista e lo storico, e li mettiamo assieme e questi esperti dialogano tra di loro, perfetto. No, voi dicevate prima, non si può fare ricerca sull'immigrazione senza l'economista, eccetera, ma si può fare ricerca sull'immigrazione senza gli immigrati? Senza le associazioni di terzo settore che ormai praticamente hanno in mano 3/4 della situazione dell'immigrazione, senza i soggetti che stanno dentro la situazione e che sono portatori di un potere e sapere molto diverso e che pongono il problema di che cos'è la produzione del sapere su una scala qualitativamente diversa da quella, diciamo, della pura interdisciplinarità tra esperti. E quindi il lavoro collettivo sì, ma collettivo, chi ci sta dentro il collettivo? Sì, questo tuo intervento mi fa sentire veramente quello che appartengo all'era sociale, nel senso che io ho fatto tutte le cose che tu dicevi, dall'inchiesta, insegnare nelle 150 ore. Io sono laureata negli anni, a metà degli anni 70, quindi quel tipo di esperienza, di ricerca, anche di uscire, si chiamava anche allora Torre d'Avorio. La immagino, ma non questo credo. È questo tema che è interessantissimo questa discussione, sono affascinata dal vostro modo di porvi problematiche, domande e anche modo di diciamo così, di scrivere, di comunicare la storia, che erano le domande, in maniera diversa da me, probabilmente bisognerebbe parlare anche di contenuti, che si poneva negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70. Ora, la cosa che mi fa veramente riflettere e che mi stimola moltissimo, proprio in questa Torre d'Avorio, io stamattina ho citato le parole di W. Du Bois, grande intellettuale afroamericano, individuo che però si rapportava ad un gruppo di riferimento che era, lui si sentiva un leader della razza nera, quindi aveva come riferimento all'esterno una realtà ben precisa che lui analizzava, il suo riferimento, il suo oggetto era questo. Torre d'Avorio, non si può stare dentro la Torre d'Avorio quando i neri sono massacrati, uccisi, non hanno niente da mangiare, eccetera. Che è un modo di dire, questo è un discorso secondo me che voi vi ponete, cioè l'importanza della produzione di conoscenza storica che parte da quelle che sono le domande dell'oggi. Quali sono le domande dell'oggi? Che tipo di ricerca storica, che tipo di domande si fanno oggi rispetto a quelli che sono i problemi della contemporaneità? Poi si può fare storia antica, storia moderna, storia di qualsiasi tipo, di qualsiasi paese, di qualsiasi area geografica, ma si parte dal presente per interrogare il passato. Allora, che cosa oggi abbiamo bisogno? Uscire dalla Torre d'Avorio, io ci sono stata dentro per 35 anni in questa Torre d'Avorio, ci sono uscita con un disagio, ho sentito parlare di disagio qui oggi. Voi avete difficoltà, questo disagio è perché in qualche modo questa Torre d'Avorio non vi fa entrare, nel senso, per tutte le ragioni possibili e immaginabili. Chi c'era dentro e non si riconosceva in questo tipo di ricerca, perché la ricerca è cambiata drammaticamente, la ricerca storica negli ultimi 15 anni, non per le fonti digitali, che sono un mezzo che può essere usato in tanti modi, ma per il tipo di conoscenza che queste tendevano a produrre. Il fatto di produrre una conoscenza che non è fruibile a un pubblico più vasto, che ha bisogno, cioè la misura in cui c'è una deprivazione della conoscenza storica a livello di pubblico vasto, una produzione sempre più artefatta, così rarefatta, anzi, no? Sofisticatissima, per un pubblico assolutamente ristretto, totalmente autoreferenziato. Ecco, allora, la domanda che vi faccio, e mi piace tantissimo il vostro, mi fa molto piacere questa cosa, sono felicissima di essere qui e di sentirmi ancora parte di un movimento, no? Di un certo senso, transgenerazionale. Come ci si interroga rispetto, quali sono i problemi? Quello che diceva lui, che se si fa una ricerca riguardo le questioni degli immigrati, non si può fare senza il riferimento all'organizzazione degli immigrati e agli immigrati stessi. Cioè la produzione di conoscenza storica va fatta insieme, cioè trovare in modo attraverso queste fonti che sono, diciamo, democratiche tra virgolette, ma non ci dimentichiamo che sono democratiche in una società dove la democrazia sostanzialmente non c'è più. Allora, come ci si interroga a questo punto? Come si fa a ricostruire la democrazia nella società, come storici? Partendo dalla nostra ricerca. In una società in cui la democrazia, sinceramente, è andata a fare una girata, come si dice in toscano. Quindi, questa è la domanda che vi faccio. L'altra cosa, la storia pubblica. Public history, guarda caso l'ha detto in inglese. Da dove viene la public history? Viene dal mondo anglosassone, che forse per una, diciamo, è stata la prima accademia, o la prima, diciamo, gruppi di ricerca. Mi ricordo ai tempi appunto dell'inchiesta, mi ricordo ai tempi di History Workshop in Inghilterra che io ho vissuto, mi ricordo i tempi in cui si faceva questa ricerca con gli operai a Trento, a sociologia, insomma c'era tutta questa dimensione in cui si creava l'inchiesta che partiva dal basso, la bellissima rivista che era Inchiesta. in cui si cercava di produrre insieme una conoscenza che era, cioè non si parlava nemmeno la parola interdisciplinare, cioè le competenze venivano messe insieme e si, in questo modo c'era un problema da affrontare. Qual è il problema da affrontare? L'orario di lavoro, la storia dell'organizzazione scientifica del lavoro. Si discute insieme a seconda, c'era lo psicologo, c'era il sociologo, c'era lo storico e si guardava il problema e si fornivano delle competenze in base di più o meno, ma non c'erano questi confini disciplinari che sono stati imposti dalla torre d'avorio, ma chiamiamola così l'Accademia, secondo me si fa anche, cioè, oggi non è nemmeno più una torre d'avorio, è una torre senza avorio, insomma, una torre fatta di ferro, non lo so, insomma, l'avorio è qualcosa che apparteneva al passato, quando era qualcosa di prezioso, oggi è meno di più. Quindi questo aspetto dell'interdisciplinarità che in tutti questi magnifici progetti europei viene esaltata, ma che in realtà questi progetti europei tendono a produrre una conoscenza che è estremamente frammentaria o che è funzionale anche a un tipo di società che crea questo tipo di problemi che oggi stiamo vivendo. Allora, vogliamo capire, cioè, bisogna mettere in rapporto le nuove metodologie, la produzione di conoscenza, la società, public history, secondo me è questa una delle chiavi. La storia pubblica, allora bisogna capire cosa si intende per storia pubblica, ma l'utilizzo di portare nelle scuole, per esempio, mostre, questo tipo di lavoro che state facendo, cominciare a cooperare con gli insegnanti, che anche loro, che loro sono, se parliamo con gli insegnanti di scuola media, di scuola superiore, si sentono veramente che anche loro hanno queste esigenze, anche loro hanno queste esigenze e si rapportano tutti i giorni, vedano i ragazzi, che cosa gli dicono, come rispondono alle domande che vengono da presente. Quindi la storia pubblica è un grande sforzo necessario per avere un pubblico più ampio. Cioè, quindi la conoscenza che non è soltanto per i concorsi accademici che si produce in libri, secondo me, o che siano fatti con una ricerca digitale o che siano fatti da soli o anche in due o tre, magari sono fatti soltanto per quel concorso e quanta produzione c'è che non serve assolutamente a nulla, cioè fatta veramente in maniera strutturata. Ma vogliamo cercare di produrre qualcosa che parta dalle domande. Allora, quali sono le domande? La public history per l'interdisciplinarità, cos'è l'interdisciplinarità? Chi le ha creati questi confini delle discipline? Perché dire interdisciplinarità vuol dire che sono le confini delle discipline. Chi le ha creati? La valutazione, un altro tema che secondo me è importante, è diventato una specie di mantra della valutazione, ma chi valuta il valutatore? Quali sono i criteri della valutazione? Chi è che li ha creati? Esatto, ma perché si devono accettare così? Ecco, allora volevo capire, ripeto, sono molto contenta di questa vostra vivacità, questa vostra innovazione, ma rispetto alle domande, come ci sono? Possiamo... Vogliamo parlare lui, credo. Chi gli sta prendendo l'intervento? Perfetto. C'era lui che voleva rispondere a un paio di domande che erano sollevate, però se c'erano altri interventi prenotati andiamo. Ma vai, tranquilla. No, niente, io volevo provare ad azzardare una risposta alla prima domanda che è stata fatta, rispondo come membro del caso S, alcune alle prime, la prima domanda che è stata fatta. Nel senso, la prima cosa che mi viene da dire, un po' per limitare la prospettiva di discussione forzatamente, era più sollevare la prospettiva, dicendo giustamente che esistono comunque degli spazi di ricerca in cui un'organizzazione gerarchica del lavoro non esiste, non è presente. Questa cosa purtroppo per il momento non la prendiamo in considerazione perché sostanzialmente all'interno del nostro collettivo siamo tutti studenti, quindi viviamo una certa mancanza degli spazi all'università, la viviamo applicato dalla prospettiva di studenti in un percorso di formazione. Quindi alcune delle nostre esigenze di domande di discussione, di domande di spazio di discussione e di approfondimento sono nate più che altro da delle mancanze che abbiamo individuato all'interno del nostro percorso formativo. Per cui, infatti, alle prime riunioni che avevamo fatto come collettivo, le domande che ci ponevamo erano più che altro su quella che era la nostra formazione, nel senso sentivamo la mancanza di una discussione che non fosse limitata ai 10-15 minuti che potevano essere dettagliati all'interno di un seminario, la domanda di un approfondimento libero di autoformazione, diciamo anche, che potessimo guadagnare, da poter guadagnare sia all'interno dell'università che fuori dall'università, e la possibilità di discutere come degli storici in formazione, come dei giovani storici, che è una definizione un po' desueta, che però ha utilizzato nei nostri primi momenti di lavoro. Detto questo, secondo me all'interno dell'università e spesso anche nel nostro lavoro, ogni tanto abbiamo toccato un po' in questo, ci sono degli spazi in cui si può ritrovare uno spazio democratico, tra virgolette, cioè di scambio fra studente, insegnante, ricercatore, dottorando e chi che sia. Sono un po' difficili da trovare, non dappertutto ci sono. E soprattutto, a questo ci aggiungo, per completare il quadro da cui siamo partiti anche con l'idea di fare un blog, mancano quella serie di spazi altri fuori dal mondo accademico in cui un certo tipo di riflessione, un certo tipo di tentativo di far ricerca, seppur in forma abbozzata, di iniziare a trovare un percorso di professionalizzazione, si possono sviluppare. Nel senso, e qui mi ricollego con un'altra riflessione che era venuta fuori prima, cioè delle esperienze passate da cui che si sono mosse dalle stesse esigenze. Parlavi delle 150 ore, dell'inchiesta o di altri strumenti. Cioè, la cosa che a me ha colpito molto è che con cadenza ciclica questo tipo di esigenza, cioè l'esigenza di trovare spazi di discussione, l'esigenza di far uscire la storia dall'attore d'avorio, di ridarle un ruolo sociale, è una cosa che è sempre riemersa, come è riemersa 20 anni fa, come è riemersa 30 anni fa, anche adesso sta riemergendo e noi ne siamo rappresentanti, tra virgolette. Cioè abbiamo sentito questa esigenza e cerchiamo di dare delle nuove risposte. Da una parte questo può voler dire che delle risposte in passato non sono state trovate e che quindi quel dato strumento non ha funzionato, però questa è una questione che adesso non interessa, però vuol dire che c'è qualcosa che ritorna. Il grosso problema, secondo me, è che è proprio quello che oggi, a differenza di quello che poteva essere il passato, che io posso solo immaginare, mancano alcuni spazi di espressione di queste cose. Si faceva riferimento prima al discorso delle riviste. Le riviste, per degli studenti che stanno affrontando un percorso di formazione, molto spesso sono uno spazio chiuso, per quanto possono essere anche una rivista che ha una valenza sociale, semplificando molto il discorso, nulla, però è uno spazio che è più o meno chiuso, nel quale tu puoi rientrare per un meccanismo di cooptazione. Allora, questo possiamo agire in questo senso? Possiamo dare un ruolo sociale anche alla discussione storica tramite degli spazi in cui si entra solamente per cooptazione, che quindi implica una struttura di natura gerarchica, che c'è qualcuno che è già dentro che dice dopo fammi questa cosa per me, fai questa cosa per te, e poi magari rientra nel meccanismo. Ti aggiungo una cosa rapidissima: implica anche un'assunzione delle stesse forme e dello stesso linguaggio criptato, della stessa incomunicabilità, perché chiaramente se vieni cooptato per entrare in un contesto come di una rivista storico-scientifica, chiaramente non puoi entrarci a gamba tesa scrivendo in maniera totalmente diversa dalla persona che ti ha cooptato per farti entrare, perché altrimenti non ci entri, fondamentalmente. Cioè, oltre questo, cioè questo è già di per sé un grosso problema, nel senso in cui, diciamo, allargando molto il ragionamento, visto che si parlava di recupero della democrazia tramite quello che noi stiamo facendo, tramite il lavoro e la ricerca storica, cioè in che maniera si riesce a recuperare un percorso di democrazia quando questi spazi dove questo afflato verso un cambiamento si potrebbe esprimere in modo di un ampio discreto già all'interno di quella comunità scientifica o intellettuale che di quegli strumenti deve fluire? Cioè, in che maniera si riesce a fare questo? La mia adesso è una provocazione per alimentare il dibattito, però è anche la volontà di descrivere un quadro in cui è difficile trovare uno spazio d'azione. La nostra volontà di partire e di fare un blog può avere molte spiegazioni. c'è la volontà di costruire uno spazio di dialogo differente, cioè di coinvolgere direttamente il lettore in una discussione partendo dall'articolo, cosa che sta più o meno riuscendo, ci stiamo lavorando perché è un lavoro che abbiamo iniziato a fare da un anno e dobbiamo limare ancora la nostra metodologia d'azione. Però risponde anche al fatto che certe strutture, certi spazi sono in qualunque caso preclusi e quindi bisogna iniziare a trovare una serie di spazi in cui agire in maniera autonoma, che da una parte questo è un dato a mio giudizio pienamente positivo, perché pian piano si inizia a fare anche un altro tipo di rete, cioè io sono consapevole che io faccio questa cosa di storia, so che c'è qualcun altro che nello stesso settore sta provando a proporre una modalità di azione, una modalità di esperienza autonoma, perché non può farlo in questo quest'altro modo, in questo quest'altro spazio, e quindi pian piano iniziamo a far incontrare esperienze e provare ad avanzare tutti insieme. Dall'altro esiste però un altro lato, a mio giudizio, e qui mi fermo, cioè chi crede questo tipo di esperienze che si muovono in maniera autonoma, che cercano di fare qualcosa di differente, oltre che per costrizione, anche per volontà, che ascolto hanno? Cioè, in che maniera riescono a discutere sia con la comunità di riferimento, con la comunità intellettuale di riferimento, che con una società X in maniera allargata? Io prendo un esempio molto semplice di un festival che c'è a Bologna, che è il BIRA, che è la bagarre internazionale delle riviste alternative, adesso non mi ricordo bene, in cui anche Zapruder ha partecipato negli ultimi 2 anni. Il BIRA a cosa serve? Chi è che veramente va lì per cercare di capire cosa sta succedendo nel mondo delle riviste, delle testate, di informazione, di ricerca autonoma? Pressoché nessuno, se non gli stessi interessati, chi già fa parte di quel piccolo giro di interessati. Nel senso, secondo me questo non voglio distruggere tutto, va benissimo ed è bene che ci siano questi spazi in cui comunque siamo 4 sfigati dentro papale, ci si incontra, ci si fa 2 chiacchiere una volta all'anno, ci si scambia un paio di idee e va benissimo. Però abbiamo la presunzione giusta di dire bisogna fare un passo in avanti e riteniamo che questo tale strumento possa essere utile, bisogna capire veramente dove si vuole andare a parare. E qui qualcuno vuole rispondere? Ok, allora io volevo sapere l'intervento. No, allora, perché Jacopo lo conosco, posso sapere il tuo nome? Fabio, Cristian, Alessandro. No, perché così riesco a chiamare per nome. Allora, volevo prima di tutto mettere la questione della didattica verso la fine, se non ti dispiace, perché secondo me è molto importante, però vorrei partire da una riflessione generale sulla ricerca collettiva, perché secondo me uno scambio di battute tra me e lui è stato a quanto nel segno. Nel senso che sono 2 elementi su cui noi abbiamo dibattuto molto, no? Sono 4-5 anni che noi dibattiamo e partiamo da questo. E se non vi dispiace vi leggiamo le domande che noi ci siamo poste all'inizio come KIP, perché il metodo che utilizziamo e che abbiamo utilizzato, che sta mutando nel tempo, è quello di intervenire sul testo, ognuno interviene sul testo dell'altro attraverso una discussione, quindi prima ci sono i testi, ce li si trasmetteva per mail, adesso ci sono altri strumenti che ci permettono di poter fruire in maniera molto più semplice e diretta del testo, si interviene sul testo dell'altro, si uniscono e via dicendo poi si riproduce tutto attraverso una ridiscussione di quello che si sta scrivendo e via dicendo. Quindi quello che vi sto per leggere sono le prime domande che ci siamo posti per costruire il saggio che teoricamente dovrebbe uscire a settembre, dato che il terremoto ci ha presi alla sprovvista. Allora, se siete interessati alle domande, però volevo rispondere alle domande che ci siamo poste. Allora ti chiedo, cioè, risposta a cosa? Perché c'erano delle Allora, volevo partire dalle domande che ci si può porre no? Ok. Che Alessandro diceva prima. E si ricollega poi nel fare ricerca collettiva. Il nome? Cristiano. Ok. Quindi ve le posso dire perché magari possono essere anche punto di discussione, o semplicemente si possono aggiungere, anzi, noi non aspettavamo altro da 4-5 anni che qualcuno dice scusate, ma vi siete posti questa domanda, tra tutte le domande che vi siete posti. E, erano divisi in tre parti, ma ve le leggo, il nome delle tre parti. Allora, perché scrivono gli storici? Chi si preoccupa di come si fa storia e perché? Quale metodo è opportuno utilizzare per spiegare come si fa storia? Quali obiettivi si hanno quando si fa storia? Cos'è la storia per noi? Quali obiettivi ci poniamo? Quali metodi di ricerca utilizzeremo? Quali metodi del metodo? Quali basi teoriche? Le nostre proposizioni, intenzioni, i nostri metodi saranno fissi o immutabili? Cosa sarà immutabile e cosa no? Faremo storia? Poi riflessione e gestione del sapere storico. Uso del copyleft. Rapporto tra storia e politica, rapporto tra storia e mezzi di comunicazione, rapporto tra la storia e il nostro tempo, memoria o scoperta. Per fare storia bisogna studiare. È necessaria l'interdisciplinarietà? Che ruolo hanno i testimoni? Queste erano le prime domande che ci siamo posti, poi ovviamente capite che in 4-5 anni sorgono spontanee altre domande. Però se può essere d'aiuto anche nella discussione, queste erano le domande che ci siamo posti noi, da cui siamo partiti. In 4 anni siamo riusciti anche a fare una ricognizione generale di quello che è lo stato generale di quello che viene chiamata ricerca collettiva. Non è un caso che noi abbiamo scritto non ricerca collettiva ma ricerca e scrivere corale, perché a un certo punto ci stava stretto il termine collettivo, no? Perché risponde a una comunità, a un insieme di persone, la collettività, che però non guarda al vissuto di ogni individuo e nemmeno guarda la sua somma come una forma olistica, come è il coro, no? Quindi noi abbiamo detto a un certo punto no, ma forse noi non siamo un collettivo, noi non stiamo facendo le cose in maniera collettiva, noi stiamo procedendo in maniera corale. Quello che noi abbiamo notato in molte esperienze anche a livello internazionale, stamattina leggevo il Sole 24 Ore che ha portato Chiara, non abbiamo non l'abbiamo portata apposta, nel senso ci è capitato. E c'è un c'è questo ma dov'è? Chi è che parla quel figlio? Ok. Raghavan, che è uno scienziato di fama mondiale, dice. Adesso. Non me l'ha portata su. Dov'è? Mi nella piega. Io ok, vabbè. L'Occidente sorgente della moderna scienza ha una grande responsabilità in questo senso e dovrebbe impegnarsi per assicurare che l'innovazione sia globale e tarata per un cambiamento ecosostenibile. La scienza quindi non è una gara tra la Cina e il mondo, ma un evento di squadra per il sostentamento e il vantaggio reciproco. Il mondo è ormai interconnesso, la mobilità di studenti e ricercatori ha migliorato le opportunità di sfruttare i talenti, inevitabile lo spostamento verso una scienza globale. Che però richiede un nuovo modo di pensare e di regole condivise. E il primo passo verso un approccio più unificato del processo scientifico è stato fatto da Subra Suresh, direttore del National Science Foundation, che ha convocato questa settimana, in Virginia, 47 leader della ricerca provenienti da 44 paesi. Per farlo in breve, il summit ha portato alla creazione del Global Research Consortium, che è iniziata ad affrontare due temi importanti, il merit review e il libero accesso ai dati scientifici, al fine di spianare la strada a progetti multinazionali. Ormai la ricerca dipende dal networking e, vista la difficoltà di attrarre ricercatori senior in Italia, abbiamo deciso di avviare partnership mirati in Asia. Siamo partiti l'anno scorso con Singapore e va avanti così. Il concetto di fondo, dicono, bisogna andare verso la cooperazione, bisogna andare verso la collaborazione, soprattutto nella produzione del sapere. E noi diciamo, sì, concordiamo. Però la domanda è, quali sono le modalità quando si è in quelle 4, 5, 6, 7, 10 persone nel creare la filiera, no? Della produzione del sapere, ma subito dopo anche della trasmissione. Perché se prima non è passato un concetto, almeno quello che noi abbiamo intravisto è, possiamo fermarci solo al creare delle ipotesi e poi dopo andare a fare una ricerca, scrivere e fermarci lì? No, secondo noi è un processo che deve essere molto più lungo e va proprio sulla questione della didattica, ma più in generale dell'educazione. Cioè, noi crediamo che chi fa ricerca e chi scrive non può non permettersi di occuparsi anche dei processi che ne derivano e quindi anche della questione educativa e didattica. Cioè, io non posso non chiedermi il mio libro che tipo di funzione può avere, non posso non accordarmi con associazioni che si occupano di educazione, che possa andare dall'intercultura o che possa trattare temi di svariato tipo. Non possiamo non permetterci il fatto di entrare in contatto con queste realtà e insieme a loro costruire dei percorsi che vadano all'interno delle scuole, bene, che vadano all'interno dei centri giovani. Capito? Quindi diciamo che l'equipe è il metodo, non è quando ci chiedi ma come pensate di interagire con questo. No, noi non ci interessa, è il metodo quello che ci interessa, poi siamo 4, siamo 8, no, quello non ha importanza. E quindi da lì, per le esperienze che abbiamo visto a livello generale nelle università, vi è un approccio collettivo, secondo me è molto più vicino a quello che diceva Bloch, no? della famosa alleanza di tecniche, no? Lui lo diceva, deve essere un'alleanza di tecniche, ma spesso avviene, in realtà si formano dei grandi, come posso dire, delle cordate in cui si ritrovano studiosi anche provenienti da diverse discipline che lavorano sullo stesso tema, però è un lavoro collettivo. Esatto. Cioè si possono anche trovare in riunioni, ma non significa invece discutere, andare in archivio insieme, leggere le fonti insieme, interpretare insieme, scrivere insieme, pensarsi non come un ente composto da individui ma come un soggetto unico. E per questo, anche sulla questione delle firme, e torno al discorso di Alessandra, quando diceva, parlava della Torre d'Avorio, ne abbiamo parlati tutti, personalmente noi abbiamo sempre pensato che non è che vogliamo entrare dentro la Torre d'Avorio. Anzi, noi partiamo proprio dal discorso per cui gli interlocutori devono essere vari, tra cui ci sono anche coloro che sono all'interno delle torri d'avorio. Dunque, noi, il percorso che faremo soprattutto da settembre in poi sarà quello di aprire anche la discussione a chi è dentro alle torri d'avorio, ma senza la necessità di dover spaccare qualcosa all'interno, ma perché non ci interessa più di tanto. Noi diciamo, c'è una strada che si può percorrere, aiutateci anche a modificarla, perché è mutabile. Se voi ci state bene, se non ci state, proseguite verso la via individuale, di carriera, nessuno. Cioè, fatelo tranquillamente. Tanto per quanto ci riguarda, sicuramente c'è una morte lenta, c'è anche una putrefazione, diciamo, c'è una puzza che sicuramente da determinate istituzioni, e non parlo soltanto delle università, perché, e qui dopo chiudo, scusate se sono stato lungo, arrivo alla questione della didattica, no? Nel senso, secondo me il degrado è generalizzato, ci dispiace non essere stati ieri qui, perché probabilmente avete parlato in maniera anche ampia e approfondita di questo, però sicuramente sulla questione della storia, ma in generale del porsi, qualsiasi disciplina lo potrebbe fare, e del porsi la questione del come all'interno delle scuole si fa storia e si potrebbe fare storia, esula secondo me anche dal libro di testo più rivoluzionario, con le schede più straordinarie, i DVD più belli che si possano fare, perché il problema nostro modo di vedere, e ancora qui torniamo sul metodo, è che i ragazzi, ma anche noi, non siamo abituati a utilizzare degli strumenti scientifico-critici o critico-scientifici. Noi siamo abituati a avere qualcuno che ci dice come funziona una determinata cosa e finisce lì. Allora, oggi il processo, e questo parte di noi lo stanno facendo all'interno delle scuole perché ha la possibilità di lavorare nel mondo dell'educazione, è di iniziare a lavorare con i ragazzi, ma lavorare allo stesso tempo su se stessi, sugli strumenti che tu puoi avere per conoscere, per ricercare. Cioè il discorso dell'equipe, e da qui l'equipe è un metodo, nasce proprio dall'intento, non tanto del voler diventare qualcosa, ma perché a noi fa piacere, siamo felici di fare storie, con tutti i problemi del caso, di precarietà, di affitti da pagare, quindi devi fare 10.000 lavori diversi, però noi stiamo facendo storie. Lo facciamo ovviamente non come può farlo un ricercatore, anzi probabilmente ci sono ricercatori che fanno più didattica che ricerca ultimamente, quindi noi forse siamo anche più fortunati. Però non possiamo non porci il problema di come invece dire che esistono degli strumenti per conoscere e per produrre conoscenza, e qui il problema è che le persone devono saperli utilizzare, e da qui si connette anche la questione dei supporti informatici, che io non li vedo come supporti perché non vedo buoni caffè c'eri tu, ma secondo me sono proprio gli strumenti principali attraverso i quali in realtà tu crei anche riflessione. Noi non ci saremmo mai posti questo problema se non ci fossero stati i common creatives o i software di quel tipo, o non nascesse proprio dal web la questione del copyleft, no? Cioè, sono tutti discorsi che sono nati necessariamente sul web, così come la piattaforma ResApp che utilizzate voi. Cioè, sono tutti strumenti a cui, secondo me, si potrebbe educare tranquillamente anche a scuola. E la cosa triste è che non si fa, si utilizza ancora il sussidiario, o si utilizzano ancora determinati strumenti cartacei, quando hai la possibilità di utilizzare strumenti che ti permettono di fare sapere in maniera diversa, insieme, con piacere e felicità. Scusate. No, quello ti interrompo appunto perché c'erano appunto delle sollecitazioni, c'era l'avevano data da un po' e sì, facciamo un esercizio di silenzio, di compressione delle nostre risposte, perché altrimenti tutta quella, cioè l'idea che volevamo tenere gli interventi molto corti per dare spazio al dialogo va scema un po', insomma. Allora, no, a me venivano in mente, avete detto sicuramente tutti cose molto interessanti, problemi che sono assolutamente condivisibili e sentiti secondo me da molti. C'erano delle cose che mentre vi sentivo parlare, perché in fondo alla fine ci sono molte cose in comune, però secondo me ci sono problematiche e modi di sentire anche secondo me diversi. Fra di voi puntavate, cioè passando anche dal percorso comune, però se puntavate il dito su cose un po' diverse, qui sentivo necessità nella mia testa di fare ordine un pochino, no? Per cui sicuramente c'era un discorso dal basso e dall'alto, cioè si fa storia dal basso e si fa storia dall'alto, che era lì, nessuno lo ha nominato, però era lì, poi è venuto fuori negli interventi di chi è venuto un po' dopo, era diciamo dietro le punte di tutti questi interventi. Però quello che stava un po' dicendo lui, quello che aveva detto Alessandra, nel senso che mentre vi sentivo parlare mi venivano in mente una serie di cose e le butto lì perché sono cose pensate ora, che sono cose su cui ho riflettuto solo nel buio della mia cameretta e non in gruppo, e quindi potrebbero essere delle benemerite banalità, però sicuramente ci sono secondo me dei problemi grossi e molto pratici che uno si deve porre, ovvero prima di tutto appunto sul discorso del web strumento, se il web cambia o no il modo in cui si fa storia, se lo cambia. Secondo me bisogna molto distinguere l'esperienza che avete fatto voi, nel corso della scrittura collettiva o comunque di un lavorare che sto di un lavorare ricerca in equip, con quello che è nella maggior parte dei casi, quelli che sono progetti collettivi che sono sul web nella maggior parte dei casi, che sono il mettere insieme il risultato di lavori precedenti individuali. E quindi quella è una distinzione, secondo me, fondamentale da fare. Però, e ritorna lì la cosa del basso e dell'alto, nel senso, nel momento in cui io questa storia da lavoro, scusate, mi dispiace, però una cosa non è alla moda, lo so che adesso si fa storia fuori, cioè si fanno quelle cose fuori dalla storia da lavoro, ma io la vorrei prendere questa storia da lavoro invece. Cioè io vorrei che qualcuno ci mettesse piede dentro, io non sarò, perché guarda, stavo parlando a pranzo, io personalmente l'anno prossimo penso di fare altro. Quindi non sarà, perché non me lo posso permettere personalmente, ma se qualcuno può, che questa storia d'avorio va occupata in qualche modo, perché altrimenti io questo, e dal punto di vista della divulgazione secondo me è fondamentale, perché sennò io noto un problema, un piccolo problema di mobilitazione delle risorse, nel senso che a livello di piccolo gruppo si può creare un'equipe che continua a lavorare continuativamente insieme, e anche perché magari io vivo nella stessa città o comunque può crearsi determinati spazi, o altrimenti lavorare in equip può voler anche dire però che le equip si compongono e si scompongono a seconda e in funzione dei progetti, che è quello che succede nella scienza. E questo modo di lavorare però presuppone la capacità di mobilitare risorse di cui campare e mangiare. Allora, quando si arriva lì, in questo senso, secondo me, a parte che si deve allargare a livello internazionale, perché a livello internazionale delle cose stanno succedendo, io al momento spero che l'unica cosa che continuerò a fare di accademico sarà un network dove non ridete, ma siamo una spagnola, un'italiana, una norvegese, una danese e una finlandese e una manca la svedese, perché secondo me c'è già i soldi, il Nordic Council, e quindi cioè, network che si mettono su progetti un pochino più lunghi, no? Sono queste cose internazionali, persone che si sono conosciute e hanno trovato che, oh cavolo, aspetta che tu lavorando su determinati temi, potremmo cercare di metterli insieme. Sicuramente non può venire fuori un lavoro corale di, del tipo che fate voi, però anche noi per esempio lavoriamo comunque sui testi delle altre, ce li passiamo prima, sicuramente non, non è, non può essere quel tipo di interazione così forte, anche perché so, le vite ci hanno portato completamente altrove, però queste cose si possono fare. Il problema è A, la mobilitazione delle risorse, B, un problema grosso di credibilità, nel senso, se tu vuoi arrivare alla gente, io ultimamente l'altra ragazza non c'è, che aveva fatto l'esempio del gas, e lì per lì che ho detto non avevo pensato a un gas, avevo pensato a un gas, un gruppo di acquisto solidale, e lì per lì mi era venuto però in mente, oddio, un gas, no? Ultimamente mi stavo scontrando proprio con questo discorso, mi piaceva tantissimo, no? In una di queste riunioni dove si sta fuori dalla società dei consumi. E perché poi una cosa, questo sta funzionando, si fa una specie di bilancio, però la divulgazione sta funzionando. Allora che io mi sono detto, scusate, la divulgazione sta funzionando per chi? Ma se io vado alle iniziative siamo sempre soliti tre disperati, ma sta funzionando per chi? Se quando metti il baracchino alla top festa si fermano sempre i soliti tre disperati, quale divulgazione sta funzionando? E la stessa cosa secondo me avviene a questo, cioè il problema non è solo come arrivare in termini di quantità, il problema è come costruire una credibilità. Nel passato, grandi anche intellettuali, non è vero che tutti quelli o che stavano nella Torre d'Avorio o anche che non ci stavano avevano trovato mezzi per sostentarsi comunque, quindi poter essere anche voci libere, hanno scosso le coscienze e hanno mosso le persone, però anche perché se ne parlava a pranzo, si era costruita una credibilità. Il problema è come diavolo si costruisce una credibilità a livello di pubblico, ma a livello divulgativo, e questo è uno, io non ce l'ho la risposta, il problema però me lo pongo, perché si rimane sempre, no, in questa frammentazione che mi fa un po' arrabbiare, ma non con voi, cioè, nel senso non è quella dei vostri confronti, dei miei anche, nel senso di come diavolo si costruisce questa credibilità. E l'ultima cosa, appunto, il discorso, e questo anche per quello che tu dicevi, delle informazioni in esubero, no? Cioè nel momento in cui tu hai tutte queste informazioni e tu vuoi ampliare il pubblico, tu devi trovare in qualche modo il modo di costruire una credibilità. E secondo me questa storia d'avorio va presa d'assalto. Cioè io ultimamente sento tanta gente che come me se ne va al grido di ah, ma anche tanto, anche se faccio un ricorso nell'università, poi se entro me la faranno pagare a vita. Quelli che chi sta con te, tu sei passato avanti, ma hai fatto ricorso, avevi davvero più titolo, allora passi avanti a chi non doveva passare, allora me la faranno. Però ragazzi, in Torre d'Avorio, se qualcuno ha la possibilità, che la prenda, perché altrimenti l'unica cosa che succede è continuare uno scollamento. Poi che a me piace partecipare a iniziative, no? Che costruiscono, però sono tutte, anche lì si forma un'autoreferenzialità di altro tipo. Ecco questo. Ci sono altre, prima magari allarghiamo un attimino e teniamo le molto. C'è qualcuno di qua che vuole dare anche il cammino? Sono tutte stimolantissime, così come volevo fare io due domande, così un po' bruciapelo un po' sia a voi ragazzi che a tutti gli altri. Chi di voi è cresciuto giocando a Civilization o World of Worlds? Uno? No, l'altra domanda è chi di voi regolarmente interviene e scrive su Wikipedia? Wikipedia. Wikipedia. Abbiamo creato delle pagine, ad esempio penso alla Fondazione Fossili, però dopo sono rimaste lì, non ci interveniamo così. No, voglio dire, stiamo parlando di due dei campi in cui la rivoluzione digitale ha creato, da una parte, uno spazio straordinario assolutamente senza precedenti di, chiamiamola, di una democratizzazione molto molto in fieri, nel senso che si sta continuamente del poter fare storia in termini assolutamente di diffusione di massa, che possa essere in inglese o in italiano, per cui non ci sia. Dall'altra parte, diciamo, e questo lo dico nel senso che regolarmente in tutte le università negli Stati Uniti ormai Wikipedia fa parte di tutti i corsi, non c'è corso in cui non sia più ormai esplicito l'appello, perché far finta che non esista e che gli studenti non vadano per prima cosa a consultarsi su Wikipedia è totalmente tirarci una schioppettata che siamo dentro la torre d'avorio o fuori. Per cui, diciamo, parliamo di qualcosa che esiste e che dovrebbe essere non la torre d'avorio, ma la città d'avorio da in cui infiltrarsi prima di qualsiasi altra cosa. Per cui primo tema che vorrei lanciare. Da qui bisognerebbe veramente così cominciare a pensare come inserire per esempio la storia dei conflitti in Wikipedia, ma in termini di inserimento proprio su ogni voce dove il conflitto viene elaborato o portato via. Questo è un problema. Inserirlo nella didattica a tutti i livelli. Diciamo, nei miei seminari si finisce con l'inserimento di una pagina di Wikipedia, per cui il risorgimento che sia qualcosa, magari è una frase, magari è un link, ma è dialogo con chi poi dall'altra parte ti fa il controcanto. Dunque, c'è la collettività e c'è comunque un punto di vista sulla storia che non parte né dalla scrittura o dalla condanna della scrittura, ma da chi legge e chi vede. Chi legge e chi vede vuol dire due cose fondamentali secondo me, e cioè chi legge vuol dire porsi dalla parte di chi può portare una difesa del ruolo della torre d'avorio universitaria, perché si rivolge in qualche modo ad un pubblico ancora esistente di intellettuali o comunque di formazione politica di cui tutti siamo comunque in questa stanza perlomeno figli, credo abbastanza. E cioè quando vai a leggere un libro di storia la prima cosa che noti è il titolo, se c'è qualcosa che esteticamente ti prende e ti incominci, ti mette le cose in un certo modo, cioè noi leggiamo prima di scrivere, leggiamo, e la lettura ci porta ad applicare letture del passato al presente. È molto più vero secondo me che il fatto delle domande del presente che ci sono, ma poi a livello della lettura del libro che prendiamo, di quello della terza che scegliamo, magari una volta è un amico, ma la prossima volta è quel libro che ci dice forse qui c'è qualcosa di nuovo. Cosa è certo? Ieri sentivamo nei nostri, diciamo, nei concorsi la novità e l'originalità sono criteri estetici, non ci vuole croce per andare a cose. Siamo ancora in una cultura in cui l'estetica, perché la storiografia fa parte della formazione politica e ideologica, perché ci dà idee, perché attraverso il passato costruiamo idee sul presente. Per cui questa funzione in qualche modo intellettuale che sta in parte dentro il lettore d'avorio, ma anche al di fuori, comunque può costruire, però in cui l'autore può essere collettivo giustamente perché recepisce da tante cose, però è una funzione, come diceva Foucault, è un nome che può essere anche il tipo 84 oppure Wuming, ma è un nome in cui si racchiude una collettività. Qui io vorrei spostare il dibattito un po', o almeno provocatoriamente dire la distinzione non è solo fra torre d'avorio e chi sta fuori, ma come ci poniamo di fronte all'altro tema, cioè al fare storia, perché nel leggere la storia e nel produrre, nel leggerla in quel coso, nei fumetti, l'editore ci dà delle idee su come orientarci nel presente, quel 1+1=3, fantastico, può darsi che io domani mi facerebbe come titolo di un saggio su, non lo so, Vittorio Emanuele Garibaldi, non lo so, voglio dire, cioè prendiamo e utilizziamo continuamente, dentro. Il fare storia secondo me è il punto centrale, e cioè a livello di comunità, quello che diceva Christian, il coinvolgimento delle fonti nel dialogo, quello che la digitalizzazione permette in tanti modi di dialogo, ma soprattutto da portare nelle scuole per eliminare cosa? Eliminare la narrazione dei testi di storia, per eliminare il senso che il fare storia è ridotto al sapere dei fatti. Questa è la nostra dannazione che ci portiamo dietro dall'inizio dell'Ottocento, e scusate se io sono figlio di Ellen White, ma da questo punto di vista, in un certo modello in cui la storia è figlia di una cattiva scienza sociale di primo Ottocento e una, diciamo, un'estetica di metà Ottocento, mi sembra una definizione che ancora regna per certe cose. E in questo senso io dico, fare storia come laboratorio è un'idea veramente interessante, e l'ho sentita da tutti voi, tutti gli interventi veramente sono interessantissimi, perché l'equipe vuol dire anche scambiarsi, vuol dire inserirsi, vuol dire poter creare dei laboratori che possono anche ritornare verticalmente. La Stanford University usa sia i soldi che ha per organizzare il proprio Humanities Lab internamente, ma usa anche delle strutture fuori dell'università che continuamente vengono riassorbite e vengono finanziate. Quello è un caso, diciamo, a parte. Però il fare storia, imporre il senso di un fare storia come narrativa collettiva, come il fare sul campo, il creare, l'analizzare le fonti, il discutere insieme, questo credo che veramente sia un qualcosa di straordinariamente, che non va e non si traduce direttamente nella monografia, che invece è tutta un'altra cosa. Quella io la chiamerei, questo è il mio punto di vista, teoria. E cioè quello che noi chiamiamo storia, storiografia, è teoria. Quando noi scriviamo quei libri là, facciamo teoria. Teoria nel senso del guardare a degli ampi spazi, spazializziamo il tempo in termini di segmentazione, ma soprattutto diamo un'organizzazione di idee in capitoli e in tutta una serie di cose che ci aggiustiamo, quando poi, diciamo, ovviamente mettiamo le fonti, c'è tutto questo. Però è quello che fa Hawkins quando scrive il libro, e certo va a vedere sia i suoi calcoli che i libri scritti dagli altri grandi astronomi, ma scrive per un pubblico più ampio. Ci sono tanto nella scienza quanto nella storia. Noi siamo in più, lì ci sono Hawkins e altri 4-5 che mettono insieme tutte quelle cose e separano subito più grande. Noi siamo molti di più in un certo senso, e ognuno di noi porta delle fette di visione, ma secondo me quella dovrebbe essere chiamata teoria. E dovremmo invece insistere sul fare storia come metodologia a tutti i livelli, sia diciamo poi e nella scuola in maniera prorompente, e di utilizzare tutti gli spazi possibili. Scusate se sono stato. No, grazie per questa cosa. E proprio botta, non so se qualcuno si è già prenotato, sto passando. No, io ti volevo solo. No, cioè, no, ci sta, però è che tu hai tirato fuori la cosa di Wikipedia, io ti volevo chiedere, proprio per curiosità, perché ti sei cimentato in questa cosa. Come si può fare storia dei conflitti e storia in generale in una enciclopedia che ti chiede il punto di vista neutrale? E ti fermi, non vai alla sintesi. Ti imponi, scusate, cioè quando tu fai una narrazione storica vai sempre verso la sintesi finale, sei portato perché la narrativa ti porta a quello. Tu fai storia del conflitto e lascialo. Non parlare del risorgimento, parla tematicamente del, diciamo, di, adesso non mi viene in mente, però scegli degli approcci tematici che ti permettono di restare all'interno di una narrazione in cui il tema definisce anche il momento in cui tu non devi dire la soluzione, quello che è successo dopo, perché questo problema delle cause e degli effetti ci ha fregato da un punto di vista epistemologico, ci ha isolato da tanti possibilità, e siamo stati in un certo senso per una grande stagione filosofica importante. L'idea di tempo e di temporalità è stata fondamentale, ma credo che oggi, se il rapporto con il digitale spazializza la storia in termini proprio di usufrutto, lo fa anche a livello epistemologico, secondo me, in una maniera molto interessante. questa è la storia dei conflitti per me ed è una delle proposte che farò per Zapruder, è cercare nuovi modelli di narrazione in cui si concentra sul conflitto e si lascia il conflitto operante, anche se nel passato è stato concluso in un certo modo. A livello della lettura e del lettore non gli dai quella... Quante volte leggiamo ai nostri figli la storia e poi a domani ti dico quello che è successo dopo? E lui sta lì e aspetta e si immagina quello che è successo e poi... Io mio figlio mi diceva no, non è andata così, quando io gli raccontavo com'è andata, perché lui se l'era immaginata tutta diversa. Scusate se questo è poco, adesso non voglio dire che tutto deve andare in questo modo, però vuol dire riportare un immaginario molto più attivo. Scusa se sono passato sopra altre persone. Innanzitutto grazie, molto molto interessante. Però mi butto una provocazione e un fatto di stupore. In tutta la discussione è stata citata l'esperienza che ci ospita tutti, se non voglio essere provocatoria, però da 11 anni un percorso lo stiamo facendo proprio sulle questioni che poi non sul digitale, ma parte anche sul cervello, raccontare perché forse una memoria di Zapruder serve anche per ragionare. Mi permetto, chiedo di comunicare un po' di storia dell'esperienza che c'è lì, perché vuol dire una serie di questioni poste fanno parte della storia, del tentativo e del laboratorio SIM e Zapruder. Parto da un esempio che alcuni sono qui presenti, che ci sta accompagnando da un anno un gruppo di noi. Da un anno stiamo cercando di partire col progetto Zapruder World, cioè una versione in inglese, in digitale di Zapruder, eccetera. È un anno che stiamo discutendo e siamo arrivati ancora a nulla. Con un percorso di ricostruzione collettiva ci hanno messo 8 mesi a costruire un manifesto, per decidere dopo, adesso dopo che abbiamo lanciato dice che il manifesto non funziona. Abbiamo discusso per 12 mesi su come lanciare il manifesto, abbiamo scoperto che il lancio che abbiamo fatto è stato un fallimento completo, più o meno questo è stato il percorso. Questo non è una, non prendere come una critica, però forse perché ho una certa età il rischio di volta è che sembra che si ricominci da capo, non è che si ricomincia da capo, e forse ci sono dei fili della memoria tra un'esperienza e l'altra che bisogna ricostruire e tenere. Ripeto, l'esperienza di Zapruder, il modo in cui Zapruder, con i suoi limiti, io sono dei primi, alcuni lo sanno, di critico, ipercritico, litico, come un pazzo in ogni situazione, però una metodologia di lavoro collettivo, non nella scrittura del testo, ma per esempio nella costruzione della rivista, io non credo che la nostra sia una rivista che funziona molto per computazione. Posso esplicitare, nell'ultimo numero di Zapruder io ho cercato di proporre un articolo di 11 anni, l'articolo non è stato pubblicato, ma non è stato pubblicato. Cioè, io mi incazzavo te, però, no, ma lo dico come battuta, perché a volte sembra... Cioè, alcune cose le abbiamo in piedi, vuol dire, non so se lo sapete tutti come si costruisce un numero di Zapruder. Magari poi qualcuno della redazione interagisce, io sono 5, qualcuno della redazione. Noi in Zapruder c'è l'assemblea, chiunque può spedire una proposta di numero, c'è una discussione in assemblea, poi ci può andare malissimo e dice il mio numero più bello, l'assemblea non l'accetta, o l'assemblea l'accetta, a questo punto chi ha dato il numero diventa curatore, ma è solo l'inizio dell'inferno e del calvario. Perché a quel punto viene affiancato da qualcuno della redazione, che diventano co-curatori, e a questo punto inizia, non abbiamo il peer review ufficiale, poi ce l'avete sul peer review per raccontare quelle cose. A questo punto inizia tutta un'interazione tra tu curatore che hai già dato il tuo numero, hai già contattato le persone, siete brave, questi vanno gli articoli, la redazione ti dice no, col cavolo, questo non ci piace, oppure quel pezzo lì non va bene, oppure e si discute, si litiga, eccetera, eccetera. Questo è un percorso in cui abbiamo costruito una lista per 28 numeri. Cioè è un progetto concreto, cioè, certo non è un progetto di massa, però arrivo, hai ragione. Però voglio dire, e non penso che noi siamo i migliori unici al mondo, nel senso, quindi forse interagiamo, conosciamoci, perché a volte io non posso, cioè sì è vero, è quello che noi continuiamo a discutere, discutere tutte queste questioni. Altro esempio super sulla stabilità pure, il più vecchio, se lo ricordo, nei primi anni, la famosa redazione multimediale. Mi ricordate la redazione così? Tu che c'era già ai tempi della redazione multimediale in Zapruder? Alzate la mano, bastardi. Non è vero. Ok, non è uno lì. Abbiamo fatto 3-4 anni su questo, tutta la discussione era, ricordate, l'uso del digitale? E poi abbiamo perso, a un certo punto, cioè trovate sul sito la relazione finale della redazione multimediale che spiega perché la redazione multimediale moriva. No, però, voglio dire, è stato un percorso di sofferenza, io non ero volontario, non capisco niente di digitale, però lì dentro si è tentato tutto un percorso di costruzione, di ragionare cosa vuol dire multimediale, fare un convegno, fare un, se vi ricordate, fare un seminario, il risultato è stato una relazione della redazione che spiegava perché la redazione chiudeva e che non si riusciva a portare a termine quel progetto. Altro tema, cos'è la democrazia? Anche qui la famosa relazione che citavo prima, come i CPC vengono eletti collettivamente dall'assemblea e per un anno lavorano loro su quello, insomma. Questo è il modo di lavorare concreto di un'esperienza che è in atto e tra l'altro quella che ospita e che ha costruito anche, penso che tra l'altro chi gestisce i... non mi pare, come li chiamiamo? I dialoghi, grazie. Ha visto anche la novità, cioè vuol dire la novità rispetto a un concorso accademico, a un convegno accademico, eccetera. Nel senso, sì, le GAF, le GAF, le demonstrazioni e compagnia Carilab, tutta, però questo è la prima cosa, cioè non è che si comincia da zero. Questo non vuol dire che le vostre esperienze sono interessantissime, le vostre esperienze, però interagire con l'interazione la nostra ha dei limiti enormi, sono il primo, il mitico, eccetera. Prima cosa. Seconda questione. La questione del digitale, della rete, eccetera, Wikipedia, ecco, è divertente anche come si ragiona sulle cose. Per me la prima cosa che è Wikipedia è la critica di Wikipedia. E la paura di Wikipedia, sì. Più che... No, interessante, io quando insegnavo a scuola partivo proprio sulla provocazione, ragazzi, rispetto a Wikipedia. E su perché, dicevo, a me non piace Wikipedia, poi dovete voi usatela, sul fatto che Wikipedia è una fonte che è costruita da qualcuno, che... Perché dico questo? Perché forse non dobbiamo poi buttare via tutto quello che la storiografia tradizionale ci insegna, cioè il concetto di critica della fonte è uno strumento enorme e allora, e ahimè, quando noi ci rapportiamo al mondo della rete, questo grande di critica della fonte diventa epocale, nel senso che, un esempio, passate a Wikipedia Google. Il problema della gerarchizzazione che effettua Google su qualunque domanda che noi poniamo è un problema devastante rispetto al modo di fare ricerca e all'autoformazione di cui noi tutti inneggiamo. È un disastro, è una... Altro esempio, non mi sparate quello che dirò adesso, io possiedo un e-reader. Ma avete mai provato a cercare su Amazon un ebook? Ti dicono, per questo tema ci sono 47.822 titoli. Faccio mostrare i primi, io voglio vedere chi cavolo è arrivato al 47.000. Qual è la modalità con cui Amazon dice, ragazzi, ma quello è il futuro. E allora, oltre ad attrezzarci a educarci al digitale, forse educhiamo, scusate la brutta parola, ma purtroppo è terribilmente calzante, sebbene è fortemente gerarchico ovviamente, educhiamo al problema, forse delle banalità che non ci diciamo, cioè educhiamoci all'uso critico di questo benedetto digitale e questa benedetta rete. Perché io per esempio poi, scusate, ma ci sono anche altre questioni che pongo, non vi dà delle potenzialità enormi il digitale, però anche dei limiti. Non è detto che il digitale riesce a rendere automaticamente più complesso l'approccio a qualcosa. Io mi pongo dei problemi rispetto al diseducarsi alla lettura di un testo scritto unilineare a unico favore di un approccio digitale a multilivello. Allora, tutte queste questioni credo che non so. Ultima provocazione, l'ultima così veloce, però poi. Il lavoro di gruppo e cooperativo. La costruzione comune di un testo, innanzitutto complimenti, perché è un lavoro che, no, complimenti, primo perché mette in discussione il proprio ego. Io quando pubblico non vedo l'ora di vedere il mio nome sulla carta. Io sono onesto, poi sono entusiasta di vedere il mio nome sulle riviste più spiegate del mondo, ma senza alcuna che ovviamente noi volevo essere. No, adesso seriamente, però ci sono non è detto che in sé. Cioè, più a volte confondiamo un metodo, voglio dire, c'era... Vi guardate il toyotismo? Il toyotismo si fonda su questa idea, no? Il toyotismo nacque su questa idea, no? Di brainstorming, tutto... Cioè, allora il problema, e qui un termine brutto, è la storia militante. Cioè, io lo dico, io faccio storia, ma perché io ho una mia lettura della storia, mi spiace, che non è rigida perché non sono deficiente, ma è, voglio dire, e allora attenzione a non prenderci proprio in giro fin di fondo. L'università è una torre d'avorio, su alcune cose è una torre d'avorio che però spruzza luce da tutte le parti, perché sono molto capaci di comunicare alcune cose. E allora cos'è che è una torre d'avorio? Una torre d'avorio, anche perché non è vero che una torre d'avorio verso l'entrata, perché qualcuno ci entra e qualcuno non ci entra. Cioè, allora, anche questo di torre d'avorio, non è che io non vedo che sta così come un... È un sistema chiuso. Che non so quanto è chiuso, perché, voglio dire, la relazione tra sistema accademico, sistema economico e tutto quello che possiamo dire è tutt'altro. E no, e sì, no, quindi attenzione che c'è il sistema di lavoro. Un sistema di informazione, che è scrivere sui giornali, stiamo... che farò bilinguista. No. Cioè, quindi, no, lo dico come provocazione, io comprendo benissimo il concetto di torre d'avorio che avete posto tutti. Dopodiché, stiamo attenti, perché non è... Io poi sono d'accordo con te, quindi... E quello va preso, no, come si decide. Cioè, scusate, mi fermo, ma... Non ho finito, veramente, non facevo un piacere, facevo quello che posso. Io, le mie sono... Vorrei provocare le due osservazioni. Potresti alzarti che non ti sentiamo. Sì, qui, scusa. Allora, dicevo che il mio intervento è composto da due provocazioni e da due osservazioni. Le provocazioni sono le seguenti. La prima è questa. Riguardo alla storia, forse sbaglio a definirla la storia collettiva o del collettivo, non so come chiamarla. La vostra è buona storia, è storia migliore rispetto a quella accademica. E perché? Vorrei capire il perché migliore, dove vantaggi. Anche la storia dell'Accademia delle Scienze Europee è una storia collettiva. La seconda questione riguarda l'Accademia. 1+1 può fare 3, sono d'accordo. Alle volte però, può fare anche 0. Perché in un lavoro d'equipe il lavoro può portare a niente, magari non si va d'accordo, magari c'è un punto di vista differente, si limita. Poi le due osservazioni invece che voglio fare sono le seguenti, riguardo alla questione del collettivo, del lavoro collettivo. Mi pare che un'opera storica, un libro, qualsiasi tipo di produzione storica, sia di per sé sempre un lavoro collettivo. E viene dichiarato non solo nei ringraziamenti, ma viene dichiarato nella bibliografia. La bibliografia è una dichiarazione dei prestiti e dei crediti che si hanno verso altri. Poi, sempre legato sempre a questa questione, a proposito di Torre, per quanto riguarda il lavoro collettivo, c'era Machiavelli, no? Che scrivendo il suo libro parlava appunto di una torre dove lui si recava dopo aver fatto i lavori dei campi per poter sopravvivere, una volta che è stato fatto il cuore a Firenze, e si riuniva con altri storici, Rimes e Vito Livio, e poi si raccontavano le loro faccende, e anche lì ci pare che ci fosse una collaborazione. Poi, l'altra questione sull'interdisciplinarità. Avete citato giustamente Max Bloch, ci sono dei riferimenti nella storia, nella storiografia, importanti interdisciplinarità. Le andate si fondano sull'interdisciplinarità. Max Bloch non avrebbe mai potuto scrivere un libro come I Re Taumaturghi senza aver prima studiato e letto gente come Maus o Holbach e via dicendo. Poi, per quanto riguarda invece la situazione italiana, lo stesso vale per... Cioè, c'è una storiografia che è nella Torre d'Avorio, ma è una storiografia innovativa. La stessa cosa vale per un altro, poi viene dalla Polonia, Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg è uno che, forse anche per retaggio familiare, visto che era figlio di un filologo e di una scrittrice, era abbastanza interdisciplinare. Poi è andato a studiare proprio all'Istituto Warburg, e quindi pure lì non si spiega un libro come Formaggi e Vermi se non attraverso questi studi che ha fatto, queste aperture. Quindi queste aperture, voglio dire, ci sono. Cioè, la cosa importante secondo me sono da evitare le chiusure, accadendo. Quando poi un metodo oppure una cosa diventa una dottrina, diventa un dogma, diventa una fede. Però tutto quello. Un secondo, no, ok. Jacopo, sono velocissimo, strumentale. No, io volevo partire dalla considerazione dell'oggi. Io penso che almeno negli ultimi anni non ci sia mai stata tanta storia come nel tempo presente. E mi spiego. Le possibilità di fruire di storia, l'avete detto voi, da internet, la storia in prima serata, i DVD, le edicole, chi scrive di storia sui giornali. Quello che manca è la conoscenza storica, una buona conoscenza storica. E questo è secondo me il problema, almeno quello come l'avevo io. E lì torniamo a come divulgare della buona conoscenza storica, della buona storia, e quello che si diceva sulla credibilità dello storico e di chi fa divulgazione storica. Si parlava di Wikipedia. Garibaldi, l'ho vista l'altro giorno, secondo Wikipedia è nato a Palermo. E quindi capite bene che lì, a mio avviso, io lo sconsiglio come strumento, come fonte, anche per gli studenti. L'altro discorso sugli strumenti digitali. Le università danno maggior rilievo a chi usa un PowerPoint. Se fai lezioni con PowerPoint sei il dio della didattica. Però ci stiamo rendendo conto che quando interrogi i ragazzi, loro sanno dirti la stringa, ma non sono più capaci di fare un discorso articolato. Questo è un altro problema delle scuole. Come ti dicevo, se diventano un dogma, non fai né buona storia né buona divulgazione storica. L'altra questione è di utilizzare invece strumenti che diano la possibilità agli altri di accedere al sapere storico, e qui, per esempio, io penso, sono fatto occupato, noi abbiamo un grosso ritardo, per esempio, sulle mostre, grandi mostre nazionali che incidono veramente, con grande capacità e con liberamente di un uso collettivo di specializzazioni diverse, dal grafico al cartografo. Per esempio, io ho avuto dei grossi problemi a trovare qualcuno che sappia fare bene delle cartine geografiche per lo spazio storico. Negli anni 30, usando le cartine degli anni 30, che sono molto, diciamo, efficienti ed efficaci rispetto a quelli attuali, ci sono delle competenze che si sono perse, appunto, anche perché ormai sta sul digitale, faccio digitale, faccio internet e trovi alcune cose. E su questo, ecco, la mia riflessione anche sulla didattica. Io penso che gli studenti non devono diventare dei ricercatori, penso che invece bisogna formare i formatori. Questo paese ha abdicato alla possibilità che i formatori si possano formare, dandogli dei crediti, dando la possibilità, diciamo, di riconoscergli il fatto che se si formano bene hanno diritto a qualcosa in più o a quello che sia. Naturalmente parliamo di buona formazione. E c'è stato un periodo nel quale chi passava poi nei momenti di formazione totalmente piegati sul metodo e non sui contenuti. Noi ci ritroviamo molti che sanno usare bene alcuni strumenti, però poi non conoscono la cronologia, non conoscono alcuni avvenimenti, non conoscono l'analisi storiografica di alcune cose. E questo secondo me è un altro problema dell'uso anche qui dello strumento rispetto alle conoscenze. Lo strumento ti è utile per regolare una conoscenza storica, se non ce l'hai è difficile da regolare anche con il miglior strumento del mondo. L'altra questione sui laboratori. Beh, io ho lavorato tantissimo con le maestre elementari, per loro hanno fatto dei laboratori straordinari, cosa molto più difficile da fare con le scuole medie e superiori, perché lì nasce quello che si diceva un po' l'ego di dire sono io, è molto più difficile. Le scuole elementari hanno fatto dei laboratori fin quando è molto più difficile, poi c'è qualcuno che lo fa, io ho fatto 200 progetti con le scuole, quindi, però le maestre elementari per vocazione lavorano in equipe, per come dire, struttura della scuola elementare. Il problema è che hanno tolto la storia moderna e contemporanea dalle scuole elementari. Stanno tutti cavalli dei romani, ma non conoscono, no? io poi appartengo a quella generazione che negli anni 80 non ha studiato la storia del Novecento, poi è arrivato il Terzo Decreto e hanno bypassato l'Ottocento. Purtroppo io penso invece che la storia ha un inizio, un fine, un divenire, un arrivo, una conclusione. E mi ricordo, io rappresentante degli studenti, dico alla mia insegnante di storia di organizzare un'assemblea, perché c'era la caduta del muro di Berlino, lei disante sempre con questa politica, no? Allora era politica, adesso no, però quando studiamo il Novecento per decreto, e anche qui, siccome sono d'accordissimo, e qui diciamo una tesi gramsciana che mi è cara, che il presente che sceglie il passato, non viceversa. E su questo pongo il problema. Nel mio libro di storia delle scuole superiori c'è a malapena una paginetta sulla Shoah. Prendete un manuale di oggi, no? Non faccio l'esempio della Shoah, ma anche sul colonialismo, per esempio ancora oggi è pochissimo. E l'unica differenza è che il mio manuale di storia delle scuole superiori diceva che noi eravamo stati dei bravi colonialisti, abbiamo costruito case, chiese, ponti e via dicendo. Il manuale contro il fascismo ha creato anche una generazione antifascista, cioè non sopravvalutiamo il manuale. No, però è così. Io ce l'avevo il manuale. Ma... quindi a mio avviso niente, sulla questione del vostro, la vostra discussione sia importante capire dove no, però starei attento poi per quanto vi riguarda ripeto alcune cose che state dette ancora dei dogmi anche rispetto all'accademia. Io conosco dei bravi ricercatori, dei bravi docenti che tentano anche con delle difficoltà di organizzare dei buoni lavori di ricerca a fine chiuso o anche individualmente, in alcuni casi non ce la fanno per questione di risorse, per questione di incapacità di dialogare anche con il territorio, qualcuno ci prova, qualcuno non ci prova assolutamente, quindi penso che anche la lettura del nostro paese va vista con delle luci e con delle ombre, non stare attento a, come dire, estremizzare da una parte e dall'altra, pur se i problemi che avete posto penso siano reali e mi fa piacere che dato la possibilità di discutere. No, vabbè, io più o meno penso che hanno detto quasi tutto quello che volevo dire, però nel senso, rispetto alla ricezione soprattutto di quello che poi uno fa collettivamente, mi interrogavo sul fatto, come dicevamo ieri, ci stanno le riviste, sono classificate, ci sta quella di serie A, serie B, serie C. Così penso ci siano dei siti web che sono serie A, serie B, serie C. E questa cosa purtroppo capita sia sul fronte dell'indicizzazione, come dicevamo, c'è Google che fa tutta una serie di algoritmi per cui io magari nel caso S lo trovo, perché comunque ne so, c'ho scritto, lo leggo, lo trovo, X persona non lo trova. Detto questo, però, il caso S può essere utilizzato all'interno dell'Accademia, cioè al di là del fatto che io voglia o meno entrarci, però l'articolo verrà usato da qualcuno all'interno dell'Accademia o mi scarico solo la tesina su RiseUp perché è già fatta, quindi ci cambio due parole e poi gliela mando al professore mio? È un po' questo pure che cioè, forse andrebbe... cioè come mi creo legittimità? La questione della... infatti ho detto più o meno è stato un po' tutto affrontato e poi d'altra parte c'è pure il fatto che ne so, io appunto adesso per la tesi ho fatto parte di questo progetto La memoria restituita, che è una trascrizione di memorie appunto di donne. Il sito è anche un bel sito, nel senso che ci stanno un sacco di trascrizioni utilizzabili, bellissimo. Ma pure quello va bene per l'Accademia, va bene se te lo dice la professoressa, ha un indirizzo che è praticamente introvabile, a meno di non avere il nome completo di tutto l'indirizzo, eccetera. Quindi praticamente lo trova solo la studentessa o la studiosa che sta cercando quella cosa e non troverà mai nessuno al di fuori, anche se volesse uscirne. Quindi comunque il web sì, è un bello strumento, però è pericolosissimo perché tutti gli altri troveranno invece Wikipedia e tutto un mare di cose che sono indicizzate a seconda dei loro algoritmi E quindi, per esempio, se ho lo studente di Casa Pound dentro scuola e quello mi fa la ricerca sul web e mi trova tutte le pagine sul colonialismo italiano dei loro autori e su Viva Mafalca, io che faccio? Glielo accetto o no? Cioè, qual è il criterio? Il criterio di legittimità è importantissimo in questo momento, perché se no poi dove vado a parare con questo tipo? Poi c'è pure la questione delle fonti, che è importantissima chiaramente, però è molto, cioè, molto più scivolosa, perché tutta la fonte, tutte le fonti che posso trovare sul web che possono scomparire da un momento all'altro, come le giustifico e come me le riporto domani, no? Chi si occupa di archiviare il web, essenzialmente? Quello è un altro, ma quello era il problema di YouTube, insomma, che è un macro problema, perché chi le salva queste fonti? Google salva la copia cache, ma copia cache che poi va a finire pure quella, cioè, per esempio, tutti i blog su Splinter sono morti. Sì. E non stanno più nemmeno in copia cache, quindi come faccio a ritrovarli? No, non si trovano più. No, non li trovo. A meno che qualcuno non l'abbia salvati. Concedente è questo. Vabbè. Chi altro? Jacopo? No, devo fare solo una osservazione. Volevo spezzare una lancia orizzatura nel discorso che dici tu prima sul fatto che magari si pensa sempre che si riparta dall'inizio. Nelle letture preparatorie per la costruire l'intervento collettivamente si discuteva con Alfredo ieri del fatto che, mi sembra Sergio Maré, un suo articolo sulla Public History dicesse appunto in Italia uno dei pochissimi esempi. L'unico, forse anche inconsapevole esempio. Ripeto, esempio di Public History è Zapruder. Perché appunto pratica una modalità di fare storia e comunicare la storia che è innovativa e che risponde a certi canoni che si sono sviluppati appunto in parallelo con l'evoluzione dei sistemi informatici digitali. Quindi appunto c'è un riconoscimento, magari appunto non è estremo, però il fatto stesso che noi siamo qui oggi presenti, siamo stati invitati a curare un dialogo con la nostra scarsissima esperienza di studenti è già un segno, penso, così come tu appunto riconoscevi. No, un discorso sulla credibilità e la legittimità di cui si parlava prima è, penso, un problema di mente, anche e soprattutto per gruppi come il nostro, che sono formati da studenti che si avvicinano alla discussione collettiva della storia non solo alla luce di un disagio intellettuale, culturale, ma anche, diciamolo, apertamente politico. E quando si fanno discussioni tra di noi sull'opportunità o meno di entrare nell'accademia, nella torre d'avorio, ci sono molti che non nascondono la propria riluttanza rispetto all'idea di, tra virgolette, contaminarsi con quello che è visto come il sapere scientifico, ma quindi accademico, gerarchico, con il quale molto spesso non pochi ammettono di non voler avere a che fare. Io sono d'accordo con l'idea di entrare in questi luoghi di produzione di sapere, di occuparli, così come rispetto chi coscientemente, coerentemente pratica anche una opzione di rifiuto, di sottrazione all'introdursi all'interno di sentieri, per così dire, già precostituiti, e tentano invece di sviluppare la propria analisi, la propria passione per lo studio e la divulgazione della storia mediante altre pratiche. Quindi il discorso della credibilità e il discorso della legittimità, come facciamo noi a legittimarci agli occhi non solo del grande pubblico ma anche di chi teoricamente tira le fila di questo sapere scientifico e precostituito? E il discorso quindi credo che tocchi ad esempio un'esperienza come quella di Zapruder, come diceva prima Nietzsche, anche quando ci si scontra con esempi eclatanti ma molto materiali, ad esempio il problema dell'AMBU, il problema delle agenzie di valutazione. Chi decide cos'è di fascia A, B o C? Burocrazie ministeriali che amministrano una fetta di potere accademico baronale e che hanno interesse a preservare quel tipo di potere, e hanno interesse soprattutto che si riproduca. E quindi chi tra di noi, tra di voi, occupa posti di potere, lo amministri e lo riconduca. sempre nella preparazione del simposio ci è capitato di parlare con un ricercatore, professore che penso lo conosciate, Paolo Giacuzzo, che ha collaborato ad esempio sul numero, al numero degli anni 80, e lui ci confessava molto tranquillamente: io mi sono impegnato molto di più, ho speso molto più tempo e energie per fare quell'articolo su Zapruder sugli anni 80, che Zapruder, che penso venga, non so, ad oggi definita fascia 3, piuttosto che per produrre articoli che sarebbero stati pubblicati su riviste molto più platonate. Dunque, il grosso discrimine sta, a mio avviso, per garantirsi autonomamente anche una forma di legittimità, uno nel cercare di liberarci dall'ossessione dell'oggettività, l'ossessione del dover in qualche modo garantire e dimostrare di essere imparziali, perché la neutralità nel sapere cosa non esiste. E quindi, come si diceva prima, agire il conflitto, rivendicare la parzialità, certo non con opzioni ideologiche, e quindi forse uno dei punti di riferimento, sarà una banalità ovviamente, è, e ritorna a essere, la questione del metodo. Se si iniziasse a dire che si rifiuta categoria per principio l'idea secondo la quale è la competitività, è la competizione che garantisce l'innovazione non solo nella tecnologia ma anche nella ricerca, forse già si farebbe un passo in avanti, ed affermare in maniera metodologica che forse è più la pratica cooperativa, non necessariamente collettiva, ma forse la pratica cooperativa a garantire risultati migliori, il tutto unendolo alla rivendicazione A, appunto, di entrare nel datore di lavoro, B, di ricevere un riconoscimento anche materiale per questa pratica, perché è oggettivo ed è noto a tutti che è ovvio salutare, rivendicare un riconoscimento materiale per quello che facciamo, finché esistono facoltà di storia, di lettere e filosofia, è giusto ed è necessario che si ricevano questo tipo di riconoscimenti. E quindi forse è nella questione di metodo più che nella questione di contenuti, più che nella questione di una garanzia di comunque impossibile e irraggiungibile oggettività, che la credibilità e la legittimità può essere guadagnata sul terreno della storia, tra virgolette, dal basso. C'era, sì, c'era. Solo quello, tu non c'avevi niente, non c'avevi niente per me. Sì, beh, posso essere molto sintetico perché un sacco delle cose che avrei potuto dire sono già state dette, quindi evito di ripetere. Vabbè, una prima valutazione. I siti che ho visto io, cioè il caso S e l'altro di Milano, dove si parla di Lapsus. Lapsus, sì. È buono. Vabbè, adesso ridete scherzando, a proposito di lapsus freudiani, prima non è che avete fatto 2 più 2 fa 6, avete fatto 1 più 1 fa 3. Quindi decidete incosciamente di eliminare uno dei 4. Ma questo è uno scherzo. Il disegno era carino. Allora, i siti sono sicuramente buoni e l'esperienza che avete presentato oggi è estremamente interessante. Le valutazioni che mi vengono a fare sono: resisteranno alla fine del vostro percorso universitario? Perché tecnicamente il problema è come si va oltre. Non è un male se c'è una modifica, se c'è un'evoluzione, no? Il problema è che queste sono le fanzine dei collettivi universitari, no? Il problema è come si stabilizzano, perché poi in effetti è vero, non è per patriottismo, tanto io non ci ho mai scritto neanche una virgola, quindi sono esterno. Effettivamente esperienze tipo Zapruder sono più uniche che rare, no? Cioè sedi di lavorazione collettiva sono poche, sì, ci sono i fumini eccetera, ma diciamo che pochi di noi possono sperare di poter entrare nel mondo editoria e di mantenersi a quel livello. Quella sì, sarebbe bello per tutti, ma poi sostanzialmente succede a pochi che hanno messo insieme tutta una serie di casualità e di capacità che non sono replicabili all'infinito. Allora, io credo che i problemi a porsi sono: come si farete, tenendo conto che già la dizione di rete è un termine che comincia a provenire a nausea e va visto con sospetto? L'altro lapsus freudiano è prima, ma come? Parliamo di metodi di rete citando il Sole 24 Ore, eccetera? non perché si è vietato, probabilmente si trovano, io me ne guardo bene, ma sono quasi certo che si trovino più notizie su Sole 24 Ore che sul Manifesto per come sono ridotti. Però detto questo, è chiaro che ci sono concetti di rete che sono finalizzati a scopi diversi. E il capitalismo non è alieno al concetto di rete, ha superato la struttura verticalizzata gerarchica da molta, quasi tutto il Novecento, no? Quindi bisogna capire qual è il tipo di rete funzionale e laddove la si vuole indirizzare. In primo luogo, senza pretese di fare operazioni, come si dice, globali, che avevano un senso quando c'era il proletariato, c'era il taylorismo, quindi c'erano partiti, cose del genere estremamente pesanti. Però una prima cosa è quello di riuscire a far funzionare dei meccanismi in termini di rispecchiamento, di moltiplicatore, perché poi la logica della rete è un po' questa, no? E la logica della rete per certi aspetti è abbastanza stupefacente se la sai governare. Ho appena citato Fuming. Bene, il fatto di aver fatto rete sui due combattenti, il loro, quello del libro Asce di guerra in Cambogia, e il nostro nel senso che era il segretario di una sfigatissima sezione di Fondazione Comunista, e noi ce ne avevamo uno a Dien Bien Phu, anzi ancora vivo e lunga vita, il fatto di averli messi insieme ha prodotto un legame casuale che ha prodotto questo risultato. Pubblicazione, immagino, di serie C, serie, rivista di istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione, notizie su come si accede alla banca dati del casellario politico centrale, 600 copie stampate, più di 300 sono a fare la polvere in magazzino, bah. Non sto a dire quanti, non sto neanche a sognarmi quanti possono averlo letto, penso meno di 10 persone, forse 2, io è quello per cui l'ho fatta. Messo su un sito locale, rilanciato da Booming, 14.000 contatti, praticamente un best seller. Cosa funziona? Funziona il fatto che ognuno fa l'operazione di sollevamento dell'altro. Da questo punto di vista qui, più che le operazioni, quelle come si sarebbero fatte un tempo, fosse stato il partito, ci sarebbe le sedi con la riunione dove si decide come mettere in serie tutte queste robe, però roba del passato. Oggi le cose sono abbastanza più tecniche e quindi, posto che la discussione sull'interdisciplinarità, i francesi l'hanno fatto più di un centinaio di anni fa, e quindi va tutta bene, va acquisita, ma va tenuto conto che la facevano in un'altra epoca, in cui tra l'altro chi lo faceva poteva morire con le armi in pugno, ma un titolo accademico gli avevano dato, mentre qua insomma sappiamo che non è così. Allora il problema è l'interdisciplinarità con quegli specialisti che ci possono permettere di lavorare. Per esempio, una cosa che ci hanno insegnato i due informatici non storici che hanno impiantato il nostro appunto sito di periferia è questo: si gioca sui tag, sono delle cose che quando te lo spiegano la prima volta ti sembra che sia una cazzata, ma la verità è che questa cosa che sta cominciando a diventare abbastanza di massa, una volta la sapevano in pochi, c'ho un collega che poi è finito a lavorare a Belgrado e invece che stare in cooperativa sociale con me, che mi spiegava come a un certo punto ho pigliato il sito di Jacopo Venier, che credo sconosciutissimo funzionario del PDC, e a un certo punto l'ha piazzato su internet prima di Mara Venier, che si può fare l'effetto che ci facciamo, ma è sicuramente più nota. Perché? Perché già all'epoca lui non ti diceva che era in tag, lui dice ci sono una serie di giochetti che so come fare io. Adesso il tag sull'impostazione del webmaster, che può essere socializzata teoricamente con una marea di appartenenti al sito, fai già un'operazione moltiplicatore che ti dà quasi in automatico. Se fai fake queste cose qui, sì, le eliminano i tag. Se fai, scusa, non sentito. Queste operazioni qui con trucchetti e non corrispondono, sì, a una forma di controllo anche. Se ti fai il sito tu, assolutamente no. Poi ci sono altri tipi di ci sono altri di Zapruder nuovo, e sì, uno dei problemi è proprio questo. Vabbè, qui, ma appunto, qui c'è provato anche noi a cercare. Qui c'è il problema dell'informatico. È lì il problema, no? Cioè, in buona sostanza, l'informatico in questo caso qua fa la funzione del tipografo di un tempo, no? O sapevi almeno usare il ciclostile, tu le tue idee non potevi mettere per iscritto, oggi è più o meno la stessa cosa, quindi il limite spesso sta su questo tipo di cose e mi rendo conto che quando parlo sono un quasi analfabeta da questo punto di vista, mi rendo conto che è un problema generazionale e si può lavorare in termini un attimino più approfonditi. L'ultima roba che mi permette di dire è questo, evidentemente la gran parte di voi si ritrova di fronte anche un'ipotesi per cui c'è anche un bisogno di sbocco nel mondo accademico ed è evidente che bisogna confrontarsi con le riviste, quelle che non te le legge nessuno ma ti fanno il punto. Il problema è che dall'altra parte la gente sempre di più si legge queste cose invece, si apprende su internet, si forma su internet. Allora, hai un problema di miliardi dello spazio e secondo me vanno bene tutti gli strumenti. Lavorare su Wikipedia e perché no? Sicuramente è uno strumento estremamente selettivo, come tutti quelli, però buttarci su qualcosa ogni tanto non è male. Una cosa che posso dire è che dal punto di vista dell'affidabilità Wikipedia può valere la banca dati del sistema bibliotecario nazionale, cioè non è priva di difetti, ma ti può dare tutta una serie di lanci su cui devi lavorare con un minimo di impostazione filologica corretta, no? Quindi da quel punto di vista abbandonarla dicendo che tanto, se, tanto la fanno la CIA e voi che facciano, no. No, perché la CIA, anche fosse questa l'ipotesi, non è onnisciente, non è onnipotente, quindi questa cosa siamo abbastanza sicuri. E quindi ci sono degli spazi per cui puoi andare a lavorare su questi. Però contemporaneamente devi far affermare, devi creare un'autorevolezza e devi creare una tua area di lettura che poi può essere settoriale, territoriale, amicale, quel cazzo che vuoi, però devi far contemporaneamente crescere usando tutti gli strumenti e tecnologie anche delle cose che siano autonome, che potranno usufruire dei grossi nodi se sono capaci di stare in questa cosa qua. Non arriveranno mai alla stessa cosa, però devo dire che poi l'esperienza quotidiana ti dice che le cosine, che sono i risultati di te li porti a casa e nell'arco di alcune generazioni è più probabile che alla fine siano letti, quando dico generazioni di 5 anni, non certo quelle demografiche, però nell'arco di una serie di situazioni è possibile che attraverso circuiti che non saranno più nazionali ma potrebbero essere internazionali, insomma, dei risultati e degli spazi si vadano a creare, anche se questo io credo l'Accademia Italiana in termini di riconoscimento anche del lavoro di chi ha fatto i siti non deve darà prima del prossimo mezzo secolo e quindi pure nel pensiero dobbiamo aggiustarci l'immagine in altro modo. C'era qualcun altro che voleva aggiungere qualcosa? Voi volevate dire qualcosa? Io velocissimo a rispondere a quel ragazzo che non so il nome. Sì, veramente sarò velocissimo. Noi non abbiamo mai parlato di storia migliore o peggiore. Io penso solamente che se io sono da solo in un archivio posso riuscire a comprendere determinate cose. Se in un archivio sono insieme almeno altre due persone, ne comprendiamo di più. Io penso che in quel momento farò sicuramente un lavoro migliore piuttosto che sono da solo. Poi ti puoi fare una storia migliore della nostra, non metto in dubbio questo. Io posso solo dire che in quanto soggetto unico ad affrontare una questione ho dei limiti che posso superare in qualche modo confrontandomi con altre persone. E anche per la questione di dire uno più uno può fare zero, io credo che ogni discussione porterà un risultato, positivo o negativo che sia. Se io spessissimo non siamo d'accordo, quasi mai siamo d'accordo, cioè oggi se sto ripreso mi hanno detto te devi sempre dire di no perché è così che funziona, no, non da loro tra l'altro, cioè è stato qualcun altro a dirmi, cioè noi discutiamo in continuazione e raramente siamo d'accordo su un punto. No, infatti secondo me c'è una parola che è chiave della ricerca in tutti gli archivi, anche quelli che vengono da solo. Ma con te stesso lo puoi fare discutendolo con gli altri storici, con la storiografia, con... Ah, io non metto in dubbio che ci sia questa opportunità. È una discussione continua, il lavoro solitario non esiste in questo... Io non metto in dubbio. Poi, il lavoro dei RIF, se sei in due magari riesci a collaborare, però ci potrebbero anche risolvere dei problemi, oppure ci si potrebbe confondere. praticamente. Però infatti ognuno ha i modi di lavorare differenti, sono secondo me anche dal nostro punto di vista funziona la sicurezza. Può succedere che la cosa può essere fruttuosa, non può succedere che possa essere assolutamente. Ma non è che c'è il 100%. Io sono un cliente, il problema è quello che da chi ci sono stati molto di meglio che non hanno portato a nulla. Ma sempre nell'Accademia della Nuova Genetica. Scusate un attimo, però se posso aggiungere, non so se tutto, però se posso fare riferimento a quello che diceva il ragazzo di cui non so il nome, cioè secondo me prima di tutto, vabbè, nel lavoro in generale nostro c'è una condivisione di regole iniziale, cioè non si parte da un discutere in generale e poi dopo si va a una maggioranza, minoranza. No, abbiamo condiviso delle regole che non starò qui a spiegare perché è una lunga serie di regole. E quindi da quel punto di vista, appunto, a prescindere dal migliore o peggiore che già ha risposto Manfro, io volevo dire due cose. Quando a un certo punto prima hai detto, adesso che ti trovo, sul riferimento sperimentale, cioè non è un caso che l'equipe sperimentale di storia abbia il termine sperimentale e non sia soltanto equipe di storia, cioè perché il concetto di fondo è: c'è un metodo, noi diciamo che è possibile praticarlo, noi non diciamo utilizzatelo perché è un grandissimo metodo e dopo avrete una storia straordinaria, no, è noi lo stiamo sperimentando così come l'abbiamo creato, stiamo chiedendo. E per questo secondo me è iniziato anche un certo tipo di percorso insieme ad altri soggetti, penso alla razza partigiana che qui non c'è, di sperimentarlo e perché no modificarlo e perché no di creare una sorta di versione 2.0, nel senso una sorta di aggiornamento, per intenderci, un update, cioè per dire: noi non vogliamo tenere una verità assoluta in tasca, stiamo dicendo, abbiamo individuato delle problematiche, stiamo cercando di capire quali sono le possibilità di gestione. Da soli non ce la facciamo, anche se siamo una keep, abbiamo bisogno di altre persone e per questo serve però la sperimentazione, perché finché appunto ci sono le lucubrazioni o speculazioni di tipo teorico, probabilmente non arriviamo da nessuna parte. Facendoti degli esempi appunto storici, volevo dirti, no, e non, mi sembra che è innovativo, né dal punto di vista del lavoro di chi, né dal punto di vista del non vedi solo l'innovazione, nessuno pretende avere un'innovazione. Cioè almeno non credo che qualcuno di noi abbia voglia di arrivare a proporre un'innovazione. Non è che siamo più fighi di tutti quanti perché facciamo questa cosa fighissima e collaboriamo con tutti quanti. Cioè è un modo di approcciarsi per noi diverso e alternativo, che è nato da dei problemi che ci siamo posti autonomamente senza che nessuno ce li sia venuti a dire. E cerchiamo di confrontarci con la realtà completamente diversa. Sì, non ci discutono. Non fate il ping-pong perché è fastidioso. Secondo me la questione è che ci sono già stati degli esempi storici, ma nella realtà attuale e specificamente nell'ambito ad esempio accademico si tratta di un approccio completamente alternativo a quello proposto. Diverso, non è che è vivo, siamo tutte le idee. È diverso. In università, come anche nella scuola, ovviamente il discorso del merito, della competizione, della rivalità, eccetera, viene valorizzato e premiato più che l'approccio cooperativo e collaborativo. Andate al fatto dell'Accademia attuale, contemporanea, in Italia, la realtà è che le giornate sono un riferimento, esatto, la vita nostra che abbiamo vissuto, che non abbiamo incontrato nel nostro percorso di studi e di approcci del genere, tant'è che le giornate appunto è proprio là, cioè è un nostro riferimento che citiamo sempre perché è un esempio di una cosa che non abbiamo trovato nel nostro mondo in questi 30 anni di vita, perché qui noi delle rifugi siamo già tutti fuori, quindi infatti mi volevo collegare anche al lavoro che no, se no è lunga. Noi andiamo avanti fino a notte. Mi andiamo avanti fino a notte, quindi se... non so se. Freddo. No, prego. Allora, cioè, se vuoi intervenire no vabbè c'era Jacopo non se c'erano altri interventi per notati facciamoli poi sì c'era la discussione può continuare anche come si cioè come si è sempre detto anche nel simposio nei momenti di per me cioè comunque ma come ha posto lui anche rispetto alla nostra esperienza non entro in merito alle discussioni perché sono state sollevate molti temi in modo molto la cosa che a me interessa più della vostra questo posto diciamo diversi gruppi che hanno parlato oggi è il fatto che secondo me siete un segnale e in qualche modo sta un movimento emerge dalle stesse necessità alcuni anni prima e secondo me ci sono più esigenze intanto diciamo che c'è un'esigenza che nasce da un bisogno sociale non so chi lo diceva prima quindi tiro fuori alcuni temi che sono già emersi nella discussione faccio le mie riflessioni su questo magari e il fatto che praticamente c'è una marea di laureati, dottorandi, o ricercatori che non riescono ad entrare nel mondo accademico e che però non vogliono rinunciare a fare ricerca storica o ricerca di qualsiasi tipo perché guardate che questo tipo di prime sperimentazioni non avvengono solo nel campo della ricerca storica. Iniziano ad avvenire, noi abbiamo l'esperienza degli antropologi romani, del collettivo di antropologi a Roma, oppure una compagna che viene al centro studi a Parma che arriva dagli studi sociologici. No? Quindi non riescono ad entrare in accademia e però non vogliono ritornare, non vogliono rinunciare a fare ricerca, perché c'è l'esigenza di fare una ricerca che è vero, in qualche modo è vero, è diversa dai meccanismi dell'accademia classica. Qui alcune cattedre fanno un modo, in alcune forme universitarie si trovano anche ancora i seminari, si trova ancora il lavoro di equipe, eccetera, eccetera. Magari su questo lo faccio è diverso, però senz'altro in Italia sono molto arretrati su questo e quindi si tenta di fare ricerca in altro modo. Ora, collettivi come questi di Bologna iniziano in modo diverso, molto diverso. Tipo, prima qui c'era Andrea Ventura, che adesso è andato a rilassarsi un po', ma c'è l'archivio, c'è l'esperienza dell'archivio del Museo Audiovisivo di Frosinovo, che è gestito da un collettivo di, vanno tra i 30 e i 20 anni, di ragazzi che iniziano a cercare di fare mestiere del museo storico oppure adattandosi anche a gestire la trattoria, no? Però gestendo il museo e continuando a fare ricerca, oppure non so, c'è il collettivo di Brescia che lavora molto con l'ACRI, come la Silvia Boffetti, cioè ci sono realtà territoriali molto simili che non è un caso che guardano con interesse all'esperienza di Zapruder e di Storia in Movimento, perché in qualche modo Zapruder e Storia in Movimento li ha anticipati sia sul piano delle esigenze sociali sia sul piano delle esigenze di ricerca teorica e di confronto collettivo fuori dalle regole del gioco e anche sul piano dello schieramento, del contatto con il mondo dell'impegno politico. Quindi io dalle cose che avete detto da questa discussione trago questo impulso. Secondo me su questo, visto che ormai i fermenti ci sono, come storia in movimento dovremmo tentare di mettere sempre più in rete. William, io ti chiedo, ma è un'anticipazione che voi vi rendete conto di aver avuto o è una cosa che ciclicamente ritorna? Che ne so, perché noi appunto abbiamo anche questa domanda, è semplicemente qualcosa che noi sentiamo come studenti perché siamo inseriti in quella cornice particolare, vabbè, voi non lo siete, ok, però questa è già un elemento in più, eh. Ah, no, no, ovviamente, ovviamente. No, a metà siamo già fuori. No, dico, tu ti accorgi che adesso c'è l'emersione di un fervore, o è qualcosa che ciclicamente ritorna a ogni generazione, diciamo così. No, no, ma non perché non ci riesca. Però l'intercettazione c'è in quel tempo su questo, non è di ogni generazione. Cioè, la mia generazione che si è formata all'università negli anni 90 e ha fatto l'esperienza della Pantera, quindi è avuto anche un'esperienza abbastanza impegnativa. Per un giorno stavo io, ho detto, è stato tentato 2 mesi, c'erano discussioni, seminari, però non ha prodotto queste vostre prime interrogativi e poi un affare politico culturale, tramutarsi anche in organizzazione culturale. Non l'ha prodotta perché era la generazione degli anni 80, di fatto, la mia, quella del riflusso. Abbiamo sentito alleata invece Alessandra Lorini, che ha vissuto un'altra fase precedente e ha detto, beh, anche noi ci potevamo. Anni 60-70 la parte, anni 80-90 no, poi è cambiato qualcosa. Il Zapruder non a caso nasce nel 2002, ormai comunque noi eravamo già grandicelli, perché evidentemente i fermenti c'erano, quindi secondo me del tutto normale, ma non ogni generazione. Una, la nostra va saltata, quando noi facevamo l'università, l'università era molto, cioè era comunque una zona di resistenza, però di fatto non abbiamo prodotto così. Io guardo logicamente già mi ha preceduto Stefano, poi nel CDC stiamo lavorando e anzi dall'ultima assemblea Reggio Emilia di Zapruder è uscito fuori questa necessità di intervenire in maniera massiccia, perché per 9 anni non l'abbiamo fatto di fatto. Non solo come rivista, ma anche nelle lotte, nel dibattito culturale su tale storia. Altrimenti è inutile chiamarsi storia in movimento, poi non si fa movimento, è un po' una contraddizione. E quindi ancora assistiamo al primo dialogo che è stato fatto ieri, la logica era proprio questa, insomma, continuare un dibattito del Partito Reggio Emilia e che sicuramente continuerà nella prossima assemblea. Domani o dopodomani si finisce il CDC, decidiamo finalmente il luogo, probabilmente più sottolineo si penserà a Torino per fare la prossima assemblea generale, a ottobre, novembre, anche il mio invito vi faccio a tutte le vostre realtà, siccome è Zapruder, insomma, sì, c'è un manifesto che penso molti di voi possono condividere, non dico pagate 15 euro, entrate in Zapruder e lavoriamo insieme, non è necessario partecipare all'assemblea anche senza essere iscritti, ovviamente formalmente non si ha diritto di voto, però insomma, per esempio le proposte di numero non le portano solo gli iscritti, le proposte per il simposio, no? Come è stato fatto a Reggio Emilia, non occorre essere iscritti. Le possibilità vedono due, innanzitutto per chi vuole entrare in Zapruder, una storia in movimento che non ha incompatibilità, quindi tu non può stare tutta la Zapruder, ci sono altre 10 associazioni, no? No, per noi sono una terra. E non sono in contraddizione queste due cose che dico, l'altra comunque se vogliamo passare tra virgolette all'azione di pensare a un fronte, quindi una rete, no? Di, sul territorio di associazioni, sì, ma una mappatura e poi fare una sorta di porta offensiva da autunno, inverno, via dicendo, e uscire allo scoperto con iniziative. Tipo penso anche occupazione di archivi, simbolico, un giorno, 2, 3, occupazione sulla questione dell'accessibilità delle fonti, oppure altre cose simili. Ovviamente bisogna fare un compito con le forze. Allora la domanda che faccio io è, perché se si resta in 5 o 4 sul territorio comune, cioè che incidenza ci avete rispetto al resto della popolazione studentesca nelle varie facoltà? Cioè siete solo 5, c'è una rete, le assemblee sono partecipate, lo studente è un po' più normale, diciamo non politicizzato, mediamente politicizzato, quello più tranquillo, quello non medio attivista, segue i discorsi o siete una sorta di avanguardia, che io sono un avanguardista, non mi spavento, o siete una avanguardia e allora bisogna porsi in altro modo. Non è che vuoi la risposta subito, no? Ma poi c'è il banchetto sulla testa. Anche a cena, va benissimo. Completo. Ah, boh, qualcuno vuole aggiungere qualcosa o mandiamo questa discussione ai vari gruppetti che poi se la continuano e si mescolano? Sì, facciamo il gruppetto. Bibbia. Grazie.